البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا قانون دولي يا قانون، العدالي شفنا ولا سلام. Buongiorno Palestina. Ogni mercoledì alle 17.30 su Radio Wombat. La nostra trasmissione si rinnova ancora. Con l'inizio dell'anno Radio Wombat ha cambiato sito, migliorando il design e le funzionalità, e offrendo a voi ascoltatori la possibilità di inviare a Buongiorno Palestina commenti e domande. La novità a partire da oggi è quella di affidare la rassegna stampa mensile a diverse organizzazioni e associazioni di volontariato che pubblicano, traducono e divulgano articoli ed iniziative sulla Palestina. Voglio ricordare che la rassegna stampa mensile consiste in una trasmissione che una volta al mese viene dedicata interamente alle sole notizie. Ogni mese sarà quindi un'organizzazione diversa a curare Palestina News. E iniziamo oggi con quella a cura di Assopace Palestina. Assopace Palestina è un'associazione nazionale di volontariato con sedi diffuse su tutto il territorio nazionale. Impegnata per il rispetto del diritto internazionale, sostiene i comitati popolari per la lotta non violenta e le organizzazioni che hanno scelto la non violenza come forma di lotta contro l'occupazione militare israeliana. Svolge attività di informazione su quanto accade in Palestina, organizza normalmente 2 o 3 volte l'anno viaggi di conoscenza nei territori palestinesi occupati, incontrando esponenti politici, culturali e rappresentanti dei comitati. Troverete il link al sito di Assopace Palestina sul blog della trasmissione di oggi. La rassegna stampa mensile andrà in onda subito dopo la selezione stampa settimanale e un breve stacco musicale. Buongiorno Palestina, da Radio Wombat. Sono Lorenzo e vi parlo dei 6 articoli selezionati questa settimana. Il primo articolo ci parla del declino dei settori produttivi palestinesi alla luce dell'occupazione. Ibrahim Shikaki, professore di economia all'Università di Hartford in Connecticut, è stato anche ricercatore a Ramallah, ci parla con dovizia di informazioni e dati del disastro economico conseguente ad un'occupazione che non è solo militare, ma anche svolta imponendo leggi che condizionano direttamente l'economia. L'effetto è la progressiva distruzione delle attività agricole e manifatturiere e la crescita esponenziale del commercio interno al dettaglio, con il naufragio della bilancia dei pagamenti con scambi prevalentemente con Israele, ovviamente in maniera forzosa. Secondo articolo, Israele trema mentre la Corte Penale Internazionale indaga sui crimini di guerra. La Corte Penale Internazionale, ICC, ha deliberato di avere giurisdizione sui crimini di guerra commessi da Israele a Gaza e Cisgiordania, a seguito della richiesta formalizzata da Fatou Bensouda, procuratore capo della Corte stessa. Infatti, come di norma, Israele adduce argomenti formali e di competenza territoriale. Non si sogna nemmeno di affermare che non ha commesso tali crimini per i quali sa di essere incriminabile. USA, Canada, Australia, tutte colonie di insediamento, hanno protestato. L'Europa invece ha preso atto della sentenza e ha ribadito di essere un forte sostenitore della Corte e della sua indipendenza. Nel complesso è un evento storico che ci auguriamo possa avere i risultati sperati. Il terzo articolo, gli Emirati Arabi Uniti tagliano i fondi al NURBA. Gli Emirati, hanno sempre sostenuto in misura fondamentale l'UNRWA, l'agenzia ONU che fornisce un sostegno indispensabile alla sopravvivenza dei 5,7 milioni di profughi palestinesi, discendenti dalla diaspora causata dall'occupazione israeliana. Gli Emirati, che hanno donato oltre 50 milioni di dollari nel 2018 e nel 2019, nel 2020 soltanto 1 milione. L'anno scorso gli Emirati, nell'ambito degli accordi di Abramo, hanno normalizzato i rapporti con Israele, così come Bahrain, Sudan e Marocco. A sua volta Trump ha azzerato i finanziamenti all'UNRWA, precedentemente di 360 milioni di dollari. I detrattori dell'UNRWA sostengono che l'assistenza ai profughi perpetua il problema anziché risolverlo. Affamare i profughi palestinesi allo scopo di costringerli a rinunciare al diritto al ritorno, che Israele considera assolutamente inaccettabile perché renderebbe maggioritari gli arabi sugli ebrei. Il quarto articolo verte sui mancati resoconti dei media sull'apartheid israeliana. Il documento di sintesi di B'Tselem sull'apartheid israeliana, sulla sua violenza coloniale, inclusa l'espansione degli insediamenti, è stato pressoché ignorata dai media israeliani, addirittura nelle versioni in lingua ebraica non si è voluta pronunciare la parola apartheid. Ricordo che B'Tselem è la più importante organizzazione dei diritti umani in Israele, in grado di influenzare dall'interno il pensiero della società israeliana. La sintesi dell'articolo è: se un importante gruppo per i diritti umani dichiara che lo Stato in cui opera è un regime di apartheid e nessuno riferisce su questo, quello Stato è ancora una democrazia? Quinto articolo. Israele pratica l'apartheid sanitario. J-Link, la rete internazionale delle organizzazioni ebraiche progressiste, denuncia. Il regime di apartheid è anche virale. È intollerabile che 450.000 coloni illegalmente insediati, secondo la stessa legge israeliana, siano vaccinati, mentre i loro vicini palestinesi non lo sono. J-Link chiede dunque di garantire la fornitura di vaccini nei territori occupati, compresa la catena del freddo indispensabile alla loro gestione, garantire che i vaccini forniti ai palestinesi soddisfino gli stessi standard sanitari di quelli distribuiti alla popolazione israeliana, revocare la chiusura della striscia di Gaza per consentire il processo vaccinale. Israele viene portato come esempio virtuoso di efficienza per la campagna vaccinale svolta, sta di fatto ostacolando quella dei territori di cui detiene il controllo, in aperto contrasto con la Convenzione di Ginevra e il diritto internazionale. Come Netanyahu ha contribuito a disgregare la lista congiunta? Per 6 anni la lista congiunta, l'aggregazione delle rappresentanze degli arabi israeliani, ha costituito un elemento di speranza non solo per questi ultimi, ma anche per i palestinesi dei territori occupati e per gli israeliani non disposti a chinarsi alla protervia crescente dei gruppi conservatori ed ultraortodossi che la fanno ormai da padrone nel panorama politico israeliano. Alle prossime elezioni di marzo si presenteranno spaccati, con la Lista Araba Unita, un partito islamico conservatore, che si presenterà da solo. Pare che ci sia una trattativa diretta con Netanyahu, che, non avendo certamente i numeri per formare un governo e con l'incriminazione per corruzione che incombe, sta dicendo ai palestinesi che per ottenere qualsiasi risultato è meglio trattare direttamente con lui e che non hanno bisogno dei partiti arabi. Gli articoli di cui vi ho parlato li trovate in italiano e per intero con le rispettive fonti sul sito dell'Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. El fuego. saluto e un grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Buongiorno Palestina e la mia profonda gratitudine e ammirazione a Claudio Lombardi, Gianna Maestrelli, Marisa Cestelli di Assopace Palestina Firenze, che con la collaborazione di Associazione Amicizia Italo-Palestinese hanno fatto un piccolo miracolo in questi 2 anni di conduzione di Buongiorno Palestina. Sono Luisa Morgantini che con Elisabetta Valento e Donato Cioli vi segnaleremo alcuni articoli pubblicati nell'ultimo mese a diverse testate giornalistiche e che potete trovare sul sito di assopacepalestina.org. Parto con un articolo di Domenico Gallo, magistrato, pubblicato su Volere la Luna il 12 febbraio, e che scrive che un lampo ha squarciato per un attimo le tenebre di un sistema internazionale che non riconosce altra legge che non sia quella della forza, altro diritto che non sia basato su una politica di potenza. Si riferisce alla decisione assunta dalla Corte Penale Internazionale il 5 febbraio, che ha statuito che la Corte ha competenza a giudicare i crimini di guerra e contro l'umanità nei territori occupati da Israele dal 67, Gaza e la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est. Ci dice Gallo che con la loro decisione i giudici hanno respinto la tesi di Israele dell'inammissibilità dell'intervento della Corte, poiché la Palestina non è uno Stato. In realtà, e lo dice anche Chantal Meloni, giurista esperta di diritto internazionale, che nell'articolo che scrive sul Fatto Quotidiano il 9 febbraio, che appunto la Corte dice la Palestina ha accettato di sottomettersi ai termini dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale e ha il diritto di essere trattata come qualsiasi Stato per le questioni relative all'attuazione dello Statuto. Un esito niente affatto scontato, a cui i nemici della giurisdizione penale internazionale, in primis gli Stati Uniti e Israele, si sono sempre tenacemente opposti. Chantal Meloni fa poi notare che Israele non ha mai ratificato il trattato istitutivo della Corte. Al contrario, subito dopo l'operazione Margine Protettivo del luglio 2014 contro la Striscia di Gaza, lo Stato di Palestina ha ratificato il trattato istitutivo nel gennaio 2015. La Meloni ci ricorda poi che le indagini della Corte non avverranno soltanto per i crimini commessi a Gaza nell'estate del 2014, ma anche nel corso delle manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno, dove innocenti sono stati uccisi dai cecchini israeliani, ma soprattutto sulle colonie in Cisgiordania, che ai sensi dello statuto della Corte possono integrare crimini di guerra. Una Patel, giornalista freelance che vive a Betlemme, scrive l'8 febbraio su Mondo Weis che i funzionari israeliani lavorano a tutto spiano per contrastare l'indagine della Corte Penale Internazionale su possibili crimini di guerra. E ci dice della reazione violenta di Netanyahu, che ha promesso agli israeliani che come primo ministro combatterà questa perversione della giustizia con tutte le sue forze. Diversa, scrive la Patel, reazione della leadership palestinese. Il primo ministro Mohammed Shtai ha elogiato la risoluzione come una vittoria per la giustizia, l'umanità e la libertà e che forse l'impunità per Israele è finita. Chiudo sulla Corte con uno scritto di Gideon Levy, pubblicato su Internazionale del 9 febbraio, che a differenza della destra israeliana o dei generali di sinistra israeliani furiosi e impauriti, sostiene che ogni israeliano onesto dovrebbe essere felice delle notizie arrivate il 5 febbraio dall'AIA. È vero che la strada per perseguire i colpevoli è ancora lunga e forse impraticabile, ma un nuovo linguaggio che sarà impossibile ignorare si sta facendo strada nel dibattito vanaglorioso e arrogante di Israele, un paese che se ne infischia del diritto internazionale. Chiudo con un regalo. Si tratta di Dev Sheen, un giornalista investigativo che è stato anche in Italia con noi e che ha pubblicato sul Middle East Research and Information Project del 2 febbraio 2021 un articolo che vi consiglio veramente di leggere. E parla di Kahane, Meir Kahane, il rabbino, e dice che 3 decenni dopo la sua morte il messaggio d'odio di Kahane è più popolare che mai, e lui si evince anche perché in queste nuove elezioni israeliane Netanyahu sta cercando anche l'alleanza di questo nuovo partito che si era già presentato alle elezioni ultime e che per fortuna non era riuscito ad entrare, ma pare che invece in questa situazione con la crescita del nazionalismo fondamentalista in Israele le sue possibilità di entrare alla Knesset sono molto alte. E nell'articolo David Sheen analizza il momento in cui è stato assassinato a New York e dice di quanto razzista, violento fosse Kahane e i kahanisti. Scrive Sheen che Kahane aveva passato gli ultimi 22 anni della sua vita invocando la dissoluzione del Parlamento israeliano perché fosse sostituito dalla legge rabbinica per gestire una teocrazia ebraica fondata sulle più rigide interpretazioni della Torah e del Talmud, e incitava apertamente una pulizia etnica dei palestinesi e di tutti gli altri ebrei che rifiutassero di accettare un aperto apartheid da Israele e da tutti i territori occupati. Hebron, la città più popolosa della Palestina, offre un banco di prova per misurare la crescita di influenza del partito di Kahane. Infatti nel 94, quando venne compiuto il massacro da parte di Baruch Goldstein dell'insediamento di Kiryat Arba, noto per la presenza dei kahanisti, il ministro della difesa israeliana, a differenza che nell'83 quando un colono uccise palestinesi, ordinò di radere al suolo l'insediamento di Fuchs, il kahanista, mentre nel 94 il massacro di Baruch Goldstein ordinò il coprifuoco contro la popolazione palestinese, chiuse il mercato, i negozi della città vecchia, e l'anno scorso l'attuale ministro della difesa ha annunciato la ristrutturazione del mercato palestinese ripopolandolo di ebrei. Dico io, già all'interno della città vecchia di Hebron vi sono più di 500 fanatici coloni. E nello stesso giorno il governo ha risanato il parco Kahane dove è sepolto Baruch Goldstein e dove ogni anno durante il Purim si riuniscono i kahanisti per ricordare Kahane. Restando ad Hebron vi segnalo un articolo sul nostro sito assopacepalestina.org che riguarda Issa Amro, difensore dei diritti umani, fondatore di Giovani contro gli insediamenti, con il quale ogni anno rinnoviamo la campagna per aprire Shuada Street, fatta in occasione dell'anniversario del massacro della moschea di Ibrahim. Isamro è stato denunciato, ha subito diversi processi, adesso ha una sentenza pendente, sospesa dalla Corte Penale Militare. Nell'articolo su Mundo Weiss, Philip Weiss chiede se Navalny merita supporto, perché non Isamro? E finisco qui, grazie. What's more, no one ever disappears. You never hear the standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in bandsmen by remote control. And everyone has recourse to the law. No one kills the children anymore. No one kills the children anymore. Un saluto a tutti. Sono Elisabetta Valento. Ho scelto per questa rassegna di parlare del rapporto di B'Tselem, nota organizzazione per i diritti umani israeliana, che il 12 gennaio ha pubblicato un rapporto di notevole interesse. Il rapporto reca il titolo «Un regime di supremazia ebraica dal fiume Giordano al mar Mediterraneo. Questo si chiama apartheid». Il rapporto, così come la notizia della sua pubblicazione, sono stati subito ripresi dalla stampa e dai social media di mezzo mondo. Ne hanno parlato il Guardian, la Associated Press, la CNN, che addirittura lo stesso giorno ne fa un servizio tramite il suo inviato a Gerusalemme, Le Monde e Del Paese. Non si può dire lo stesso della stampa italiana. Delle grandi testate del nostro paese solo il Manifesto, come scontato, ne dà notizia. Per il resto un grande silenzio, anche e forse direi soprattutto da testate giornalistiche che quotidianamente parlano di Israele. Il rapporto non irrompe di certo sulla scena con qualcosa di assolutamente nuovo. Sappiamo che sin dal 2009 sono stati prodotti rapporti esaurienti che stabilivano che Israele stava commettendo crimini di apartheid. Ma è ugualmente molto importante che finalmente un'organizzazione israeliana di livello quale B'Tselem riconosca che Israele risponde ai criteri che definiscono uno stato di apartheid. Il rapporto parla del riconoscimento che la distinzione tra i due regimi, quello democratico all'interno dello Stato sovrano di Israele e quello di occupazione militare, in teoria temporanea, ma della quale nella pratica non si vede la fine nei territori palestinesi occupati, è artificiale, perché, testuali parole, c'è un unico regime che governa l'intera area e le persone che vi abitano, basato su un unico principio organizzativo. E quindi a questo punto occorre definire questo regime. E B'Tselem lo fa in modo sintetico ma estremamente esaustivo, toccando quattro punti principali. L'immigrazione, con il riconoscimento di una sorta di diritto al ritorno a qualsiasi ebreo e ai suoi congiunti sparsi nel mondo, ma che contemporaneamente nega quello dei palestinesi della diaspora. Lo spogliare della terra i palestinesi che vengono respinti in affollate enclave. La restrizione, che come sappiamo in moltissimi casi è una totale impossibilità di libertà di movimento dei palestinesi. Il negare ai palestinesi il diritto alla partecipazione politica. La disamina di questi aspetti conduce alla conclusione che l'apartheid è il principio organizzativo, ma, secondo Bezalel, riconoscerlo non è un motivo per arrendersi, al contrario, è un appello al cambiamento. Alla pubblicazione del rapporto, che, come dicevo, riceve attenzione dalla stampa, seguono vari articoli che riprendono la sostanza e commentano quanto stilato da Bezalel. Inizierò da quei pochi articoli scritti da giornalisti per testate italiane. Il primo è l'articolo di Michele Giorgio dal titolo Bezalel senza precedenti, Israele, regime di apartheid, pubblicato il 14 gennaio sul Manifesto. Giorgio, oltre a sintetizzare al pubblico italiano quanto scritto da Bezalel, ci parla delle reazioni che ha provocato in Israele, di certo non tranquille, visto che per alcuni è al limite dell'antisemitismo e rappresenta una critica che addirittura mette in dubbio l'esistenza stessa di Israele. Al contrario, per i palestinesi, il rapporto illustra una verità evidente. Sempre il 14 gennaio, Dynamo Press pubblica un articolo di Riccardo Carraro dal titolo «Israele è un regime d'apartheid, il report dell'Ong Bezalel». Carraro evidenzia come esso sia un giro di boa per l'organizzazione stessa. Il nuovo posizionamento di Bezalel non avrà solo ripercussioni interne, ma anche internazionali, perché, secondo Carraro, significa automaticamente un sostegno alla campagna BDS, che per aver usato la parola boicottaggio apartheid è sempre stata oggetto di attacchi in ogni angolo del mondo. Invece, l'articolo di Mario Lombardo su Altre Notizie del 19 gennaio, dal titolo Israele e il regime dell'apartheid, riporta alcune reazioni molto gravi del governo israeliano al rapporto di Bezalel, a iniziare da quella del ministro dell'istruzione Gallant, che ha ordinato il divieto, cito testualmente, di tenere lezioni e discorsi nelle scuole a quelle organizzazioni che definiscono Israele uno stato di apartheid e che denigrano i militari israeliani. Lombardo inoltre evidenzia che il rapporto di Bezalel nel definire Israele come regime di apartheid ha due implicazioni non espresse in modo diretto, ma inevitabilmente implicite. La prima è il riconoscimento dell'impercorribilità dei due stati come soluzione alla questione palestinese. La seconda è la conferma del fallimento del progetto sionista per la creazione di uno stato rifugio per i soli ebrei autenticamente democratico e inclusivo. Passo ora ad alcuni articoli della stampa estera che sono stati tradotti in italiano. Interessante come sempre quanto scritto da Jonathan Cook per Middle East Eye il 14 gennaio e tradotto da Invicta Palestina. Il titolo dell'articolo è «Israele sta perdendo la battaglia per oscurare il suo carattere di apartheid» con un sottotitolo esemplificativo. Un nuovo rapporto del gruppo per i diritti umani Bezalel renderà più difficile accusare i critici di Israele di antisemitismo per aver sostenuto che Israele è uno stato razzista. Dopo una disamina del rapporto, il giornalista britannico che vive a Nazareth scrive che ci sono diversi motivi per i quali ora Bezalel ha per così dire sganciato la bomba. Il primo è che nessuno crede più che Israele subirà pressioni internazionali e l'altro che Bezalel e altri gruppi per i diritti umani sono più isolati che mai in Israele. Questo significa però anche che Bezalel non deve più preoccuparsi di urtare la suscettibilità di eventuali simpatizzanti interni e che può invece rivolgersi direttamente agli attivisti della solidarietà palestinese all'estero, rompendo un tabù, quello appunto di rendere più difficile per le lobby pro-Israele negli Stati Uniti e in Europa bollare qualsiasi critica come antisemita. Cook però alla fine del suo articolo compie un ulteriore passo che Bezalel ha deciso di non fare. Infatti Cook afferma che la logica di un'analisi dell'apartheid deve essere seguita fino in fondo. Ciò richiede l'adesione inequivocabile a uno Stato unico, democratico, che garantisca uguaglianza e dignità per tutti. Mondovice, il 15 gennaio, pubblica un articolo di Norman Finkelstein dal titolo «Lo Stato suprematista ebraico, un commento alla definizione di Israele come regime di apartheid fatta da Bezalel». Condividendo la posizione di Bezalel, alla quale lui stesso è giunto da alcuni anni, Finkelstein aggiunge che l'aspetto più repellente e che maggiormente manifesta il carattere di Israele quale regime di supremazia ebraica è la totale insignificanza attribuita alla vita dei palestinesi, messa chiaramente in mostra durante le manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno. Finkelstein acutamente osserva il rapporto e le reazioni che ha suscitato anche in relazione al quesito posto e sciolto recentemente dalla Corte Penale Internazionale se la Palestina costituisca uno Stato. Israele, in modo schizofrenico, da una parte si difende da questa accusa sostenendo che i palestinesi hanno il loro governo, mentre dall'altra chiede, o meglio fa chiedere alla Corte Penale Internazionale, di riconoscere che l'autorità palestinese è impotente e quindi non si qualifica come uno Stato in grado di sporgere denuncia. Tornando infine al discorso specifico posto da Bezalel, Finkelstein non si dice molto convinto che sul piano pratico-politico chiamare Israele regime di apartheid farà progredire la causa, mentre definire Israele uno Stato suprematista ebraico suonerà probabilmente più convincente nel discorso pubblico e preoccuperà i rappresentanti della supremazia ebraica e i sostenitori di questo Stato. Interessante anche l'articolo scritto dalla Anna Tatur, perché chiamare Israele uno Stato di apartheid non è sufficiente, pubblicato il 18 gennaio su Middle East Eye. Perché chiamare Israele uno Stato di apartheid non basta? Perché, ci dice Tatur, mai una sola volta Bezalel cita nel suo rapporto quello che è il punto centrale, il cuore dal quale tutto si origina, ossia il colonialismo, e in questo caso specifico il colonialismo di insediamento. Non riconoscere questo significa perdere un fondamentale punto di partenza per ribaltare l'esistente e le nostre stesse strutture mentali. La rassegna si chiude con Gideon Levy, che con penna sempre felice e feroce interviene sul tema con un articolo, Il dovere di porre fine all'apartheid israeliano, pubblicato il 21 gennaio su Haaretz. In sintesi, Levy si dice convinto che Israele non è capace né interessato a cambiare lo stato delle cose e chiede per l'ennesima volta alla comunità internazionale di intervenire, perché solo se gli israeliani inizieranno a pagare per quelli che lui chiama i peccati del loro stato, forse prenderanno coscienza del reale stato delle cose. A questo punto finisce la mia rassegna e vi saluto. Grazie. I hear. Sono Donato Cioli di Asso Pace Palestina. Io vorrei passare in rassegna almeno alcuni dei molti interventi sulle vaccinazioni anti-Covid-19 in Israele e in Palestina. Naturalmente il problema dei vaccini risale quasi all'inizio della pandemia, ma io partirò dal 5 gennaio, quando la TV americana Democracy Now! Fa una appassionata intervista a Mustafa Barghouti, un medico palestinese, membro del Parlamento palestinese, capo di una società medica, che tra l'altro si è infettato nel corso delle sue attività mediche. Ebbene, Mustafa Barghouti si indigna in questa intervista perché si vaccinano 8 milioni di israeliani e non i 5 milioni e passa di palestinesi che vivono nei territori occupati. E dà alcuni particolari. Sottolinea, per esempio, che si vaccinano gli israeliani che vivono nelle colonie che stanno in Cisgiordania, mentre i palestinesi che vivono intorno a questi insediamenti non vengono vaccinati. Non solo, ma nelle prigioni israeliane si vaccinano le guardie e i detenuti israeliani, che spesso sono dei criminali, ma non i 5.000 e passa prigionieri palestinesi che per lo più sono detenuti politici. Insomma, secondo Barghouti, sarebbe anche nell'interesse degli israeliani vaccinare palestinesi, visto che ci sono qualcosa come 130.000 lavoratori palestinesi che vanno a lavorare in Israele e quindi rischiano di infettare anche loro. Però, almeno fino ai primi di gennaio, tutte le richieste dell'autorità palestinese a Israele erano state respinte sdegnosamente, tanto che Mustafa Barghouti parla giustamente già di un apartheid medico. Ma nelle settimane successive, per esempio il 14 gennaio, il relatore speciale della Commissione ONU sui diritti umani, che si chiama Michael Link, ricorda che la quarta Convenzione di Ginevra impone alla potenza occupante di intervenire con tutti i mezzi disponibili per la salute e il benessere delle popolazioni occupate. E ricorda anche che nel 1991, al tempo della guerra del Golfo, quando Israele temeva un attacco e quindi distribuiva maschere antigas alla popolazione, in quel momento la Corte Suprema israeliana aveva sentenziato che le maschere antigas dovevano essere date anche ai palestinesi, stabilendo così un precedente rilevante anche nel caso dei vaccini. Più tardi, il 24 gennaio, Mondo Vice riporta un'intervista della BBC al ministro della salute di Israele. Questo ministro fa proprio una gaffe razzista, perché dice: se mi dici che Israele si deve prendere cura dei palestinesi, è come se mi dicessi che l'autorità palestinese si deve prendere cura dei delfini del Mediterraneo, facendo così un parallelo tra i palestinesi e questi animali, parallelo certamente che la dice lunga. Poco dopo, l'Organizzazione Internazionale Human Rights Watch, il 17 gennaio, si schiera pure totalmente dalla parte dei palestinesi. Poco dopo, il 28 gennaio, c'è una cosa importante, mi pare, da sottolineare, che una rivista scientifica autorevole che si chiama Lancet, viene pubblicata in Gran Bretagna, che è una delle maggiori del mondo, ma è una rivista che riporta solo dati scientifici, cioè casi clinici, numeri, esperimenti, dati epidemiologici, eccetera. Ma in questo caso fa un'eccezione e si schiera decisamente a favore della vaccinazione dei palestinesi, perché ritiene che questa sia una questione di etica medica. Memore forse, chissà, di un lontano giuramento di Ippocrate. Comunque è importante che anche questa rivista scientifica si schiera dalla parte dei palestinesi. Poco dopo la TV americana CNBC pure si pronuncia a favore dei palestinesi. Insomma, alla fine Israele cede, forse dietro tutti questi stimoli internazionali, o forse per il suo interesse per non essere contaminata da vicini. Tra l'altro si va ricordato che a Gerusalemme Est vaccinano anche i palestinesi, perché lì i contatti sono molto frequenti. Comunque Israele cede e dice che elargirà 5.000 dosi, che ovviamente servono per 2.500 palestinesi. E la situazione praticamente al giorno d'oggi, come riassunta il 5 febbraio da Mondovice, è la seguente. In Palestina sono arrivate 2.000 dosi delle 5.000 promesse da Israele. Queste sono dosi della Moderna, e di queste dosi a Gaza aspettano a mani giunte 300 o 500 dosi, pensate, solo così poche, per vaccinare almeno il personale sanitario. Poi all'autorità palestinese sono arrivate al 5 febbraio 10.000 dosi del vaccino russo Sputnik 5. Poi ci sono qualche centinaio di migliaia di dosi di AstraZeneca che dovrebbero arrivare in marzo, qui i dati sono un po' incerti, e questi dovrebbero arrivare perché c'è una collaborazione tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e una cosa che si chiama COVAX, che aiuta circa 90 paesi sottosviluppati con le vaccinazioni. E poi sarebbero anche attese 37.000 dosi del vaccino Pfizer, anche se qui non è chiaro come in Palestina possono realizzare questa catena del freddo, che nel caso Pfizer è molto, molto complicata. Ma tutte queste sono previsioni alquanto ottimistiche, e comunque per la fine di febbraio si spera che forse potrebbero arrivare 500.000 di dosi, sufficienti quindi per 250.000 palestinesi. E allo stesso tempo in Israele? Beh, Israele è giudicata da tutti il paese migliore del mondo quanto a vaccinazioni. Ha cominciato presto, già a dicembre forse vi ricordate la foto di Netanyahu che viene vaccinato, e praticamente al 10 febbraio sono stati vaccinati già 6 milioni, il 60% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Allora, se si confronta questo dato, cioè che a oggi, 10 febbraio, sono stati vaccinati 6 milioni di israeliani e che forse alla fine del mese saranno vaccinati 250.000 palestinesi, i dati parlano da soli. Ma purtroppo questi dati ricordano il solito problema politico, cioè Israele sempre ricorda gli accordi di Oslo degli anni 90, che però erano accordi a interim, che dovevano valere per 5 anni, ma l'accordo finale non è mai arrivato e nel frattempo Israele ha esteso le sue colonie, praticamente bloccando la realizzazione dello Stato palestinese. Per la consueta rassegna musicale ascolterete Aymel Matlouti, cantante, cantautrice e compositrice tunisina di origine palestinese, in Malkit, titolo che significa No Found, non trovato, dall'album Kalimati Urra, Il mio mondo è libero, che è anche il titolo di una canzone che fu presentata al concerto del Premio Nobel per la Pace del 2015. Il mio mondo è libero è stata adottata dai rivoluzionari della primavera araba e presto è diventata un inno in tutta la regione, in particolare tra i giovani desiderosi di cambiamento. Seguirà i Pink Floyd in The Gunner's Dream, il sogno del bombardiere. The Gunner's Dream, composta da Roger Waters per l'album The Final Cut del 1983, inizia con il suono di un'esplosione, seguito da una comunicazione radio. Si tratta del poeticissimo testamento di un aviatore che, dopo essere stato abbattuto durante uno scontro aereo, ripensa alla sua vita passata e a quella futura, dove lui non sarà più presente. Il sogno a cui si fa riferimento nel titolo è anche l'eterno sogno dell'aviatore protagonista: vivere in un mondo migliore in cui nessuno scompare senza motivo, dove tutti sono uguali davanti alla legge e dove nessuno uccide più i bambini. A seguire, a Farxista Fiska, una popolare cantante somala che è stata la prima artista somala ad avere su YouTube più di 1 milione di visualizzazioni. Considerata da molti una grande voce, come lo era stata quella di Xalibo Khalif Magul, a cui ovviamente si è ispirata, la grande cantante somala degli anni 60, che per la sua grazia vocale fu soprannominata appunto Magol, che in somalo significa fiore. Di Farxista Fiska ascolterete Canta per Bashir. E infine ascolterete ancora Aymel Matlouti in Nasi in Palestina, Nata in Palestina. La canzone dice: non ho posto e non ho un paesaggio, io meno ho patria e con le dita faccio il fuoco, e il mio cuore ti canto, le corde del mio cuore piangono. Sono nato in Palestina, sono nato in Palestina. La canzone Nasi in Palestina è basata su Nasi en Alamo, che è stata eseguita dai Remedios Silva Pisa per il film Vengo dell'anno 2000. La canzone è stata anche cantata da Jasmine Levy, una cantante di Gerusalemme, il cui padre, Isaac Levy, etnomusicologo turco, aveva raccolto 14 volumi di canzoni giudaico-spagnole prima della sua morte, conservando amorevolmente l'eredità culturale dei tempi prima dei nazionalismi moderni e degli stati-nazione. E con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora. Inshallah! نحرق بيها إحساسي، ما في عمره. A group of businessmen has announced plans to build a nuclear fallout shelter at Peterborough in Cambridge. Three High Court judges have cleared the way for Cardiff. It was announced today that the replacement for the Atlantic conveyor, the container ship lost in the Falklands conflict, will be built in Japan. Floating down through the clouds, memories come rushing up to meet me now. But in the space between the heavens and the corner of some far field, I had a dream. Goodbye, Max. Goodbye, Ma. After the service, when you're walking slowly to the car, and the silver in her hair shines in the cold November air, you hear the tolling bell and touch the silk in your lapel. And as the teardrops rise to meet the comfort of the band, take her frail hand and hold on to the what's more, no one ever disappears. You never hear the standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in bandsmen by remote control. And everyone has recourse to the law. No one kills the children anymore. No one kills the children anymore. Just write off his final scene. Take heed of the dream. Take heed. ser conhecido. Ano lo lua da neila nahi, nahi ashaqa. Ano lo lua da neila nahi ashaqa. Ai naftaydo, nasir koisiyo. Ano lo lua da neila nahi. نحي عاشق انولو وداني الى نحي عاشق نحي عاشق وعودي معنا فرحية فيسكا مزق معنا المغرسانا وبجير هالولية ايضو بستي هالولية استوديو انكم الهن paisaje صفقة جو صفقة جو صفقة جو جو جو لا صفقة جو